Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la vicenda Fincantieri, sospende il piano l'amministratore delegato di Fincantieri Bono, il piano che prevedeva 1500 licenziamenti, la chiusura 2500 licenziamenti, la chiusura di alcuni stabilimenti, tra cui quello di Castellammare di Stabia e non solo, perché c'era anche uno dei due stabilimenti in Liguria, a Sestri Ponente, e sospende il piano e partiranno i tavoli di trattativa. Seconda grossa notizia riguarda l'America invece oggi. Perché? Perché da un lato questa sera, tra praticamente 2 ore e mezza circa, Barack Obama e Sergio Marchionne ufficializzeranno in una cerimonia anche molto formale l'uscita definitiva del tesoro americano dalla Chrysler, ossia la Fiat ha esercitato l'opzione per comprarsi un altro 6% di Chrysler, sale così al 52% nel capitale di Chrysler, 500 milioni di dollari il valore dell'operazione, e questo segna l'uscita definitiva dello Stato americano, del tesoro americano dalla Chrysler. A suo tempo il tesoro americano mise quasi 7 miliardi di dollari per salvare, per traghettare la Chrysler, che era praticamente, se non fallita, si avviava al fallimento. Il dato però che arriva oggi dall'America non è solo quello dell'accordo, della formalizzazione dell'accordo Obama-Marchionne, ma è un dato un po' più preoccupante, ossia la disoccupazione sale in America contro ogni attesa, sale al 9,1%, era attesa in calo all'8,9%, si sono creati pochi posti di lavoro, solo 53.000 posti di lavoro contro attese di almeno 200.000 posti di lavoro, 350 e 200.000 posti di lavoro, è il dato più debole nella creazione di posti di lavoro da 8 mesi a questa parte. E questo dato arriva il giorno dopo l'avviso di Moody's che o l'America decide di aumentare il tetto del debito e di ridurre il deficit, oppure Moody's potrebbe mettere sotto osservazione il debito americano e per un eventuale declassamento. Sarebbe chiaramente avrebbe effetti disastrosi, non perché il debito americano viaggia sulla tripla A, per cui è un debito assolutamente sicuro, però capite bene che se si iniziasse a abbassare anche il voto del debito USA, la situazione sarebbe probabilmente di effetto domino su tutti gli altri debiti più fragili, più a rischio, a partire da quelli europei. Non è un caso che l'America perda lo 0,60% in questo momento e l'euro si stia rafforzando ulteriormente, viaggia vicino a quota 1,46 sul dollaro. Le borse europee invece tengono, seppur di poco, Parigi invariata, Francoforte più 0,40, Londra più 0,11, l'Italia, Milano più 0,60%, grazie soprattutto oggi a Intesa San Paolo che recupera quasi il 5%, più 4,60%, Fiat più 3,50, UbiBanca più 1,90%, Fiat Industrial più 1,6, Exor più 1,6, Unicredit più 1,5, Campari più 0,90 e ST Microelectronics più 0,70 come Mediolanum. Invece sul fronte opposto Fondiaria SAI perde il 3,1, Snamrat Gas 1%, A2A perde lo 0,90, Buzzi Unicem lo 0,80%, Telecom Italia meno 0,70% come Terna, Mediaset mezzo punto percentuale di calo come Atlantia. Ancora sul fronte dei mercati segnalo che l'oro è fermo a 1532 dollari l'oncia e il petrolio invece è in calo, è sotto i 100 dollari al barile, a 98,17 dollari al barile. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie, in breve ci occuperemo anche di Grecia, chiaramente, e come sempre l'aggiornamento sui mercati finanziari. Della disoccupazione americana abbiamo già detto, così come dell'operazione Chrysler Chrysler Fiat. E poi invece dall'Europa arriva di nuovo il tema sollevato ieri anche dal presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, di avere un ministro finanziario per l'Unione Europea. È un tema che è sotto traccia da anni, ma che è diventato sempre più importante da quando si è capito che i vari ministri europei, i vari governi europei si muovevano in ordine sparso. Ricordate la Grecia con l'opposizione della Germania al salvataggio, ricordate l'Irlanda, anche qui le perplessità tedesche. Per cui si dice ormai, visto che i problemi europei contagiano tutti, converrebbe avere un ministro delle finanze europeo. Oggi il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha definito l'idea affascinante. Nel frattempo, ne parliamo anche più avanti, è stata positiva oggi la chiusura dell'incontro della cosiddetta Troica, e quindi la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale si sono incontrate per capire come muoversi sulla Grecia. In discussione c'è un prestito da altri 60-70 miliardi che andrebbe ad aggiungersi ai 110 miliardi già stanziati per i 3 anni, e io ricordo che a inizio 2012 la Grecia deve rifinanziare il suo debito per almeno 40 miliardi. È impensabile in questo momento che la Grecia possa farlo emettendo obbligazioni, cioè BOT o BTP, perché il valore teorico, il rendimento teorico di queste obbligazioni è ingestibile. Valgono il 25, dovrebbe pagare il 25% di rendimento. Voi capite bene che insomma è come se io per avere un prestito mi fosse chiesto il 25% di interesse, un interesse d'usura. Ma questo è quello che il mercato fa pagare alla Grecia, la sua instabilità. Il 25% dicevo sui titoli biennali e il 16% sui BTP greci a 10 anni, per cui o la Grecia riceve un prestito o non è in grado di rifinanziare sul mercato il suo debito. Nel frattempo Moody's ha declassato 8 banche oggi, 8 banche greche, National Bank of Greece, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, Banca Agricola della Grecia, Attica Bank, Emporiki Bank of Greece, Banca Generale di Grecia. Praticamente tutte le banche principali ne ha declassato il voto sui depositi. Il direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, Arrigo Sadun, ha fatto un elogio al ministro Tremonti indirettamente. Ha detto infatti che la gestione della politica fiscale italiana è eccezionale, tant'è che ci sono i risultati, il modello italiano per gestire la spesa pubblica è valido, al punto che il Fondo Monetario Internazionale ha in programma un seminario proprio su questo modello. (349) 238 6666 per i vostri sms. Allora, queste sono le notizie in breve, poi andremo con i vari approfondimenti. Io partirei subito dalla notizia degli aggiornamenti su Fincantieri. Ripeto, ne abbiamo parlato a lungo, 2551 esuberi annunciati, molti hanno detto a sorpresa, senza essere avvisati. Nega e smentisce questo il numero uno di Fincantieri, Bono, che dice no, è un piano ampiamente conosciuto. Comunque andiamo a ricostruire la vicenda. Il piano prevedeva la chiusura dei cantieri di Sesti Ponente a Genova, di Castellammare di Stabia a Napoli, il ridimensionamento di quello di Riva Trigoso a Genova, in tutto appunto 2551 esuberi su 8000 dipendenti, un 30% della forza lavoro, anche di più, e il piano arrivava come conseguenza del drastico calo degli ordinativi, più che dimezzati nell'ultimo anno. Ricordo però che Fincantieri è interamente controllata da Fintecna, ossia la holding finanziaria del Ministero dell'Economia, e intanto però insomma si fronteggiavano due situazioni. Da un lato chi diceva non si può arrivare con un piano che in aree molto depresse come quella della provincia di Napoli, di Castellammare, crea effettivi problemi di tenuta sociale. Dall'altro però c'è chi diceva, insomma, Fincantieri è sul mercato, se ha meno ordinativi deve anche ridurre la sua capacità produttiva. Andiamo con ordine, allora ci colleghiamo subito con Raul De Forcade, che segue tutti i temi della nautica e in questo caso anche dello shipping, della crocieristica, per le sue 24 ore. Buonasera Raul. Sì, buonasera. Romani, ministro Romani, che insomma spiega cosa è successo nell'incontro tra l'azienda, i sindacati e chiaramente anche il ministero. Oggi in questo incontro l'azienda ha dichiarato di voler ritirare questo piano. Il governo ha preso atto e ha apprezzato la risposta che l'azienda ha voluto dare in questa occasione, ma nel contempo, con la presenza di tanti ministeri e dell'Europa presenti al tavolo, con delle ipotesi di valorizzazione di risorse, di ottimizzazione della parte industriale della cantieristica italiana e con la possibilità di aprire nuovi mercati e di fare nuove proposte commerciali, riteniamo che oggi si possano aprire innanzitutto due tavoli regionali, uno ligure e uno campano. La prossima settimana in Liguria verrà firmato un accordo di programma che vale 270 milioni di euro per un ribaltamento a mare, cioè per una ristrutturazione complessiva dell'insediamento industriale nella città di Genova. A Castellammare in Campania si apre, con la collaborazione ovviamente sia in Liguria che in Campania delle istituzioni locali, un tavolo regionale per delle ipotesi di ristrutturazione. Come ho detto nei giorni scorsi, se non si troveranno delle soluzioni di ristrutturazione, di riconversione condivise, nel frattempo non si procede alla chiusura di nessun cantiere. È ovvio che siamo di fronte a una crisi economica mondiale, soprattutto nel settore cantieristico. È ovvio che dobbiamo prendere atto del fatto che c'è un calo dell'85% degli ordini su Fincantieri. È ovvio che c'è una fortissima concorrenza internazionale in termini di competizione economica e di proposta economica. Quindi, piano sospeso, non presentato, tavoli che si aprono soprattutto sui due fronti, quello campano e ligure. La Wilm, il segretario generale Rocco Palombella. Vogliamo continuare a mantenere alta l'attenzione, vogliamo discutere realmente nel merito. Siamo, voglio dire, cautamente soddisfatti, ma siamo altrettanto, voglio dire, preoccupati, perché vogliamo continuare ad avviare il percorso, perché ovviamente nei prossimi giorni noi verificheremo effettivamente se Fincantieri, ritirando il piano, è stato dettato da una scelta strategica industriale o invece è stato dettato solo da una condizione, voglio dire, di difficoltà del momento. Ancora, in occasione di questo incontro sono giunti a Roma oltre 1500 lavoratori di Fincantieri provenienti per lo più dai due stabilimenti a rischio chiusura, quindi Castellammare di Stabia e Sestri Ponente. Sentiamo, c'è la nostra Alessandra Schepisi a seguire il corteo, come è stato accolto l'annuncio del ritiro del piano, della sospensione e ritiro del piano. La notizia è positiva, ma noi non ci fidiamo di un'azienda che non propone comunque sia un piano industriale a due anni di distanza dall'inizio della crisi, ma solamente dei tagli dei cantieri. Quindi non c'è una logica. Il governo bisogna che intervenga. Il governo è l'azionista unico di riferimento dell'azienda. L'azienda era leader mondiale prima di entrare nella crisi nel proprio mercato di riferimento e tale deve rimanere. Oggi ci hanno detto che non siamo morti, però comunque sia non hanno accennato niente sul futuro. Quindi in realtà sembra quasi che l'abbiano detto per farci star calmi. D'altronde si è visto come è andata la manifestazione, bloccati da una parte e dall'altra, neanche la libertà di poter manifestare, mi sembra che siano stati civili, a parte due o tre che si sono infiltrati come al solito. Forse questa sarà la fine del nostro amministratore delegato, aspettiamo cosa ci dicano del futuro, noi continuiamo ad andare a lavorare, a finire la nave che dobbiamo finire, siamo nelle loro mani. E dove lavora? Sestri Ponente, Genova. In questo punto io non mi fido più di niente, veramente non mi fido più di niente, perché sono solo le parole, io finché non vedo scritto nero su bianco, io veramente non mi fido più di niente. Però almeno si è aperta una strada. Noi è quello che speriamo, non siamo di qua per fare scontri, per litigare con nessuno. Noi speriamo solo che ci venga dato quello che ci stanno togliendo. Quindi se c'è almeno un inizio di una trattativa, ben venga. Però non doveva essere fatto in questo modo. Senta, lei di dov'è? Io sono di Castellammare di Stabia, però vivo a Genova da 10 anni. Ho portato la mia famiglia e i miei figli a Genova per evitare che i miei figli crescano in un posto dove non ci sia lavoro, dove c'è delinquenza. Dopo 10 anni che vivo a Genova, i miei figli sono cresciuti e mi sento dire che la mia azienda dove vivo da 10 anni fra un po' chiude e io rimango, il papà rimane senza un lavoro. Questi i commenti raccolti dalla nostra Alessandra Schepis. Intanto ci ha raggiunto in collegamento, lo ringrazio, anche l'economista nonché presidente di Federtrasporto Gianmaria Grospietro. Buonasera professore. Buonasera Barigio. Una grossa esperienza anche all'IRI, per questo andiamo a analizzare un po' di aspetti sul ruolo che ha Fincantieri per il paese, al di là della trattativa sindacale. Però insomma, Raul De Forcade, poi chiariremo cos'è Fincantieri, ossia uno dei principali gruppi di cantieristica navale al mondo, 3 miliardi di euro di giro d'affari, ha costruito una nave come la Princess per Princess Cruise, che al momento del varo era la più grande nave da crociera al mondo. Ma, insomma, mondiale, diciamolo. Sì, leader mondiale, per cui insomma è un gioiello, non un gioiellino, un gioiellone, perché visto i numeri rispetto alla media dell'impresa italiana. Oggi Giuseppe Bono, l'amministratore delegato, ha detto: vabbè, se usate me come scudo, come pupazzetto da infilzare con gli spilli, spero di esorcizzare le tensioni, ritiro il piano. Non era una novità per nessuno questo piano, ho ricevuto critiche da tutte le parti, da destra e sinistra, eppure essendo una persona che si assume le sue responsabilità, con gli attacchi subiti anche la mia forza viene meno. È sembrato che a pesare su Bono più che i sindacati sia stato il ministro Romani. In effetti la posizione del governo di fronte al piano è stata abbastanza dura, direi, ma bisogna anche valutare una cosa, che questo piano è arrivato anche in un momento molto delicato. La campagna delle amministrative, certo. Proprio nel pieno della campagna, amministrative che sono andate come sono andate, e quindi è logico che il governo, che cerca in qualche modo anche di trovare dei motivi per la sconfitta che ha subito le amministrative, ritrovi anche in questa presentazione del piano un po' considerata intempestiva qualche motivo ulteriore per opporsi al piano e per anche proporre un piano alternativo o comunque palliativo che possa al momento rallentare la protesta che c'è in piazza. Ecco, mi sembra che questo sia anche indicativo. Sì, ma a questo punto cosa capiterà? Cioè, si apriranno dei tavoli, perché poi sono due gli stabilimenti, ce n'è uno anche che dovrebbe essere un po' ridotto come dipendenti, però sono soprattutto Genova e Castellammare, perché sì, c'è anche Riva Trigoso, sì, con un ridimensionamento. Ma insomma, quale potrebbe essere la soluzione? Perché Fincantieri, tra l'altro, ha anche 4 cantieri negli Stati Uniti, non è che li abbia, ne ha 8 in Italia e 4 in America. In effetti è proprio questo il punto, nel senso che probabilmente, anzi senza probabilmente, perché l'ha detto anche sul Sole 24 Ore Corrado Antonini, il presidente, c'è di Fincantieri, c'è poco da fare. Fincantieri è molto sovradimensionato rispetto all'attuale mercato, non è colpa dell'azienda, è colpa, diciamo, di una situazione economica che si è creata e di una esaurirsi degli ordini, specialmente in tutti i settori della navalmeccanica, o meglio nei settori europei, quello delle crociere, quindi questo è sicuramente vero. La prima parte della domanda, anzi, era: ma cosa succederà ora nei cantieri che si stanno per chiudere? A Genova una scappatoia, se così si può chiamare, in questo momento esiste, c'è in pendente questo accordo di programma per lo stabilimento di Sestri, non per quello di Riva Trigoso, dove si parla di un ridimensionamento, per cui si sta cercando di trovare un accordo con il comune, con la regione, tutti, anzi l'accordo è fatto praticamente per ribaltare, per allargare verso mare, diciamo, lo stabilimento di Fincantieri e quindi renderlo in grado maggiormente di costruire navi da crociera di dimensioni più grandi, perché finora non si riusciva, se ne sono costruite di dimensioni grandi ma con escamotage, perché il cantiere non permetteva di farlo tutto in un solo colpo, diciamo, ma dividendo in due le navi, ecco, quindi era un po' laborioso. Quindi questo si sta cercando di fare. Questo potrebbe comunque implicare una chiusura del cantiere per un periodo limitato, che potrebbe essere 3 anni, cosa che però comunque gli enti locali non vorrebbero. Su Castellammare la situazione, se vogliamo, è ancora più difficile, perché Castellammare soffre perché un vecchio cantiere risale ai Borbone, quindi è un cantiere dove ancora le navi si mettono in mare facendole scivolare in mare senza bacino. Ci vorrebbe un grande bacino per poterlo rendere più moderno, un grande bacino costosissimo, e in un momento di mercato così difficile chissà se vale la pena poi davvero di costruirlo in uno stabilimento, non essendoci ordini se non l'ultimo che è arrivato nei giorni scorsi proprio di Carnival. Ecco, questo è un po' il nocciolo, sì, da risolvere. Allora, grazie intanto a Raul De Forcade. Presidente Grosspietro, lei ha scritto anche recentemente su Sole 24 Ore che il settore delle grandi navi, in cui, ripeto, Fincantieri sulle navi da crociera era leader anche mondiale, è un settore da difendere, per cui è un primato, non un settore, un primato italiano da difendere. Ci può ricordare però il parallelo che lei ha fatto in questo articolo del Sole 24 Ore tra l'eroica capacità italiana di produrre queste navi nonostante tutto e i concorrenti principali che sono i sudcoreani, e invece la differenza con i concorrenti principali, cioè i sudcoreani? Ma ecco, credo che sia emersa abbastanza evidente da quello che ha detto prima De Forcade. Lui ha citato i due cantieri di cui il piano prevedeva la chiusura, uno un cantiere che ha una struttura storica e che funziona a Castellammare di Stabia con una tecnologia che ormai si tende a non adoperare più e quindi costosa, inefficiente, con qualche rischio, e l'altro addirittura quello di Sestri, in cui le navi devono essere costruite a pezzi perché non ci stanno dentro il cantiere. Questi sono problemi che esistevano già circa 15 anni fa, non sono stati affrontati anche perché quegli stessi enti locali che oggi protestano per la chiusura dei cantieri non hanno mai dato la disponibilità. In questo momento il fatturato della cantieristica a livello mondiale si è più che dimezzato. Ora, questo non può essere affrontato semplicemente dicendo ce ne laviamo le mani, perché dietro alla costruzione della nave da crociera c'è tutta un'industria che fornisce gli interni, che fornisce gli apparati, i macchinari, le tecnologie, nonché la progettazione e i servizi, che è un'industria ricchissima, una vera e propria filiera con posti di lavoro molto qualificati e molto pregiati. Quindi per questo io dicevo è un primato da difendere. Noi dobbiamo difenderlo anche perché abbiamo gli strumenti per farlo. Abbiamo degli eccellenti tecnici progettisti e anche manodopera. Ma per difendere questo rispetto a paesi a basso costo del lavoro bisogna mettere in campo tutte le risorse di competitività e non si può pretendere che queste risorse, queste capacità servano semplicemente per bilanciare le inefficienze. Le inefficienze vanno eliminate, vanno assolutamente eliminate, altrimenti sparisce tutta la filiera della cantieristica da crociera, che invece, ribadisco, è un primato che l'Italia deve difendere e conservare. Cioè lei fa notare che dentro poi una nave da crociera, ancor più che una nave militare, oddio, anche la nave militare ha tantissima tecnologia, pensiamo al gruppo Finmeccanica, al rapporto che ha anche con Fincantieri, ma insomma in una nave da crociera dentro entrano tutti i fornitori di nicchia che vanno dalle rifiniture più di lusso a invece grandi investimenti, perché sono navi enormi. Professor Grosspietro, se lei fosse al posto di Bono, cosa farebbe? Perché insomma è chiaro in questo momento che lui ha un problema di ordinativi che sono crollati, dimezzati, però si è trovato anche il governo, che è il suo unico azionista, a dire attenzione, non ci puoi scaricare 2500 disoccupati così in zone depresse, mi riferisco anche alla zona della Liguria, oltre che la zona che chiaramente di Castellammare di Stabia. Lei cosa farebbe? Dunque, se io fossi al posto di Bono, prima di tutto avrei delle informazioni che non ho, ma certamente io tenderei a distinguere nettamente i problemi industriali dai problemi sociali di aree del territorio di ordine pubblico. L'azienda deve affrontare i problemi industriali e bisogna dire che adesso che il governo si è mosso, forse le carte disponibili sul tavolo sono un po' diverse da quelle che c'erano prima, da quelle che erano disponibili disponibili quando il piano è stato formulato. Quindi può darsi benissimo che ci siano gli elementi per riscrivere il piano. È arrivato un grande ordine, si sono mosse le capacità di finanziamento degli ordini internazionali, addirittura l'Unione Europea per bocca del vicepresidente Tajani della Commissione Europea ha dimostrato il suo interessamento, quindi certamente ci sono più elementi per la soluzione, ma non si può pensare che la soluzione dei problemi sociali avvenga a carico dell'azienda, quindi occorre un lavoro di conserva tra l'azienda, che ripeto forse in questo momento ha sul tavolo delle opportunità che prima non esistevano, e il governo, che deve invece usare le leve diverse da quelle a disposizione dell'azienda. Sì, assolutamente, ci possono essere anche dei margini in alcuni casi per ricollocare le persone. È chiaro, lo dico perché rispondo agli ascoltatori, che se mancano le commesse qualunque gruppo va in difficoltà. Bisogna capire se esistono anche invece che licenziamenti forme diverse, brutto dirsi, ma la cassa integrazione. Se invece vuole chiudere proprio lo stabilimento di Castellammare di Stabia, questo invece è un altro aspetto, e sicuramente torneremo a parlarne. Io ringrazio da un lato il professor Grospietro, dall'altro anche Rudolf Forcade, perché è arrivata una notizia in questo istante: via libera dell'Unione Europea al nuovo piano di aiuti per la Grecia. Quindi la Troica, ossia Fondo Monetario, Commissione Europea e Banca Centrale Europea, hanno dato via libera agli aiuti per la Grecia. Di questo parliamo subito dopo il meteo e prima della borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che in Liguria moltissime tessiture moltissime tessiture vivono arredando le navi della Fincantieri, e questo è l'indotto appunto di cui stavamo parlando. Attenzione, è verissimo che grazie all'intervento della Cassa Depositi e Prestiti di Governo Tempini 850 milioni di euro sono serviti per finanziare l'ultima commessa, che è arrivata adesso come boccata d'ossigeno alla Fincantieri. Vorrei adesso però passare alla Grecia, perché ci sono novità. Via libera del piano europeo di nuovi aiuti, adesso vedremo quanti, alla Grecia, e il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto accetteremo, ci mancherebbe, anche l'aiuto volontario delle banche private. Vittorio Darold che ci aggiorna al passo del Sirtaki in questi giorni sulla crisi greca. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, la troica di oggi, che non è una parolaccia ma significa l'incontro tra Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Commissione Europea, per decidere se stanziare, oltre ai 110 miliardi già decisi di aiuti alla Grecia, i 60-70 miliardi ulteriori. Esattamente, allora nelle prossime ore dovremo avere il comunicato proprio degli ispettori della cosiddetta Troica, che consentirà di dare la quinta tranche, la quinta rata di 12 miliardi sui 110 complessivi decisi un anno fa. Questo in cambio di maggiori tagli e maggiore austerità che la Grecia dovrà fare quest'anno nel 2011, pari a 6 miliardi e altri 22 miliardi nel 2015. A tutto questo però va aggiunto quello che è stato deciso a Lussemburgo, alla presenza del primo ministro greco George Papandreou e al primo ministro del Lussemburgo, che è anche presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker. Lì è stato deciso che nel 2012-2013, nonostante gli aiuti da 110 miliardi, la Grecia non avrebbe avuto i soldi per andare sul mercato, cioè i tassi di interesse non erano sufficienti a far sì che la Grecia, come era previsto nel piano originario, potesse accedere l'anno prossimo ai mercati. Quindi verrà dati altri 60 miliardi, 30 nel 2012 e probabilmente altri 30 nel 2013, per far sì che la Grecia possa evitare di andare sul mercato, salvo piccoli interventi spot. Questo consentirà alla Grecia di non andare sul mercato, consentirà di avere anche però una partecipazione delle banche private. Come? Allora si dirà che le banche private, su una moral suasion della Banca Centrale Europea, dovranno fare un rollover, cioè un rinnovo volontario dei debiti dei bond in scadenza greci. Quindi niente default, niente allarmi e tutto quanto dovrebbe quadrare. È un'operazione ancora che ha qualche dettaglio, come potete immaginare, da verificare, sì. Ma questo è il quadro. Allora, scrive un ascoltatore, vi rendete conto che non lasciano fallire la Grecia per paura? E questo potrebbe peggiorare le cose. Non sono d'accordo, nel senso che è vero la prima parte, la Grecia, che se fossimo in un'altra situazione, l'Argentina per molto meno si è beccata al crack, sarebbe già fallita. Il problema è che con quello che sta capitando in Europa, che si chiama Irlanda, Portogallo, rischi sulla Spagna, con una ripresa, poi ne parleremo, che rallenta anche negli Stati Uniti, con l'attacco ai debiti sovrani, fa bene l'Europa, la Banca Centrale, il Fondo Monetario, a non far fallire la Grecia. La Grecia fa parte dell'euro, l'effetto contagio sarebbe immediato. Anche perché ricordo che le banche tedesche sono esposte per una cinquantina di miliardi, i francesi per 30 miliardi, cioè non c'è solo la parte del debito pubblico, ci sono anche le banche tedesche e francesi che hanno esposizioni in Grecia. E quindi attenzione a dire non bisogna salvarla, bisogna farla fallire. Vittorio, ricordiamo che c'è anche un piccolo problema. La Grecia a inizio 2012 deve rifinanziare il suo debito, come fa qualunque paese, anche l'Italia che ha un debito enorme, lo rifinanzia. Come fa un paese a rifinanziare il debito? Emette obbligazioni, bot o BTP, cioè va sul mercato e dice: vi offro, se comprate il mio debito vi do il 2%, 4%, 5%, a seconda di quanto è rischioso un paese, il debito di un paese. Piccolo dettaglio, la Grecia non può emettere obbligazioni, perché renderebbero così tanto che la farebbero saltare per aria, cioè c'è un rendimento teorico del 25% per un bot, per un BTP a 2 anni, c'è una cosa, calcolate che insomma in Europa in media rende sul 4-5%, nei casi peggiori, un bot a 2 anni. Vittorio. Sì, esattamente questo è il problema, cioè un anno fa quando il Fondo Monetario, l'Unione Europea, la BCE fecero questo primo piano di salvataggio, avevano previsto che dopo il primo anno la Grecia avrebbe avuto la capacità di andare normalmente sul mercato e fare appunto il rinnovo. Trovare finanziatori per il suo debito. Esattamente, finanziatori per il suo debito. Tutto questo invece, come abbiamo visto, grazie anche forse a causa della speculazione, della severità, ritrovata severità delle agenzie di rating, perché sono state veramente molto più severe ultimamente rispetto ad esempio agli inizi della crisi del 2007-2008. Vi ricorderete tutti che Lehman Brothers fallì e era AAA, quindi qualche modo insomma le agenzie a quell'epoca non avevano fatto esattamente proprio quello che si aspettava. Oggi invece sono diventate molto attive, addirittura qualcuno dice forse troppo, e quindi tutto questo ha impedito ai nostri amici appunto greci di tornare sul mercato nel 2012, perché pagherebbero un tasso di interesse talmente elevato che li farebbe fallire immediatamente. Ecco perché c'è questo nuovo meccanismo. Però, e qui c'è il però politico, la cancelliere tedesco Angela Merkel ha chiesto che le banche, anche se oggi abbiamo sentito che il Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, ha detto che lui non ha avuto nessuna notizia a tale proposito, e quindi bisognerà vedere un po' come si farà questa rollover, questo rinnovo volontario delle banche, sì, che hanno avuto, che è la vera novità forse di oggi. Sì, è la prima volta che gli investitori privati sono chiamati insomma in qualche modo a partecipare. Badate bene, è una partecipazione di un rinnovo, quindi non stiamo dicendo non devono mettere altri soldi, niente diciamo. Default, né ristrutturazione, né allungamento del debito, né riprofile, né come si dice re. Allora, staremo a vedere quante banche parteciperanno. Devo dire solo una cosa a un ascoltatore. Sì, il commento sulle agenzie di rating l'abbiamo fatto molte volte, e è vero che hanno preso le cantonate. Non c'è solo il caso Lehman Brothers, c'è anche il caso del debito greco che ricordava adesso Vittorio Darold, e andiamo indietro anche da noi, Parmalat e quant'altro. Però, voglio dire, non si possono criticare le agenzie di rating quando invece mettono in allarme o comunque sono severe. Casomai si possono criticare quando chiudono un occhio per altri motivi. Secondo aspetto, c'è chi dice: in questo modo si altera il mercato, la Grecia deve fallire. Signori, il mercato è anche un'idea, nel senso che se poi fallisce la Grecia e noi ci ritroviamo con un attacco ai debiti sovrani di tutti i paesi europei, con le borse che calano, con il mondo con le banche che perdono bocca di barile, cioè, tutto questo poi chi lo gestisce? Anche questo è il mercato. Allora, l'idea che salvare la Grecia sia un errore è un'idea che solo i liberisti più sfrenati possono difendere, ma poi i liberisti più sfrenati devono anche saper governare le tensioni sociali nel caso si verificassero. L'altra cosa è chiedere alla Grecia di privatizzare, di risistemare i conti, di avere un piano durissimo di rientro e nel frattempo tenerla in vita. Un po' come avvenne con Chrysler e General Motors, no? A suo tempo, meno male che non le hanno fatte fallire, perché poi, come racconteremo, sono rinate. Traffico, poi la borsa. minuti, allora la borsa adesso, c'è chi scrive ancora sulla Grecia, dice attenzione, la Grecia è fallita, lo sappiamo che è fallita, quando un paese deve offrire, teoricamente dovrebbe offrire il 25% per trovare un finanziatore del suo debito, è fallito, ma il punto è, la facciamo fallire con conseguenze sconosciute, imprevedibili, o la teniamo in vita in modo da traghettarla verso un risanamento, ma senza sconquassare ulteriormente, diciamo, la finanza europea? Borsa. No, vedo che la Grecia. Scrive un ascoltatore: libero mercato per i lavoratori, statalismo selvaggio per le banche, ma fateci il favore. Avete ragione, a parte il fatto che la vicenda di oggi di Fincantieri dimostra che poi interviene il governo anche sui lavoratori, però è vero che si inneggia spesso al libero mercato quando ci sono i licenziamenti, poi però invece le banche non possono fallire, la Grecia non può fallire. C'è un libro molto bello che si chiama in inglese Too Big to Fail, troppo grandi per fallire. Quando uno ha tanti debiti o quando uno è tanto grande è molto più difficile farlo fallire, è bruttissimo, è sbagliato che tutti i lavori sono ugualmente degni, tutte le imprese piccole, medie e grandi sono ugualmente degni, ma così funziona. Comunque, Paolo Paronetto, Radio Colle Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Mezzo punto percentuale Milano, grazie soprattutto a Fiat, di Fiat Chrysler parleremo tra poco, per cui dimmi se l'effetto, 500 milioni di dollari per arrivare al 52% di Chrysler. Certo, per Fiat S.p.A. è proprio questo, l'annuncio dell'accordo trovato col governo statunitense che porta Fiat al controllo e alla maggioranza di Chrysler, esattamente. Più 3,60 Fiat, più 1,44 Fiat Industrial, quindi camion e trattori, più 1,44 anche Xor, che è la controllante. Che è successo a Intesa San Paolo? Ma Intesa San Paolo più 4,90%. Esatto, è stata la migliore tra le blue chip milanesi, sotto i riflettori fin da questa mattina. È l'ultimo giorno di trattazione dei diritti sull'aumento di capitale da 5 miliardi, quindi una ragione tecnica. Anche i diritti hanno chiuso in deciso rialzo di oltre il 20%, diritti e azioni sono adesso praticamente perfettamente allineati, cioè il prezzo dell'azione Intesa San Paolo implicato dai diritti è più o meno identico a quello di chiusura dei titoli Intesa in borsa, quindi diciamo che si è concluso senza sbilanciamento da questo punto di vista, quindi in modo, diciamo, più o meno naturale. E da domani, da lunedì appunto, sarà la prima sessione in cui i diritti non saranno più negoziati in borsa, e questo oggi ha tenuto sotto osservazione i titoli, spingendo molti investitori all'acquisto, e infatti i volumi sono molto superiori alla media dell'ultimo mese. Ancora, per quello che riguarda Fondiera Assai, invece è il peggior titolo oggi, tra quelli più grossi, meno 3,41%. Esattamente, non ci sono in realtà motivazioni dirette. Il Fondiera Assai in avvio aveva pagato la debolezza del settore finanziario, in particolare assicurativo, che però poi sul finale della seduta è migliorato, ma invece il titolo Fonsai ha continuato a perdere, chiudendo in coda al FTSE MIB. Anche i volumi sono in linea con quelli del mese, quindi nulla di eccezionale. Le uniche notizie che riguardano Fondiera Assai oggi sono in discrezione di stampa, secondo le quali potrebbe concludersi a breve la vendita del 33% al centro di Igli, che è la società che controlla Impregilo e attualmente in mano Fondiavia Assai agli altri soci, cioè le famiglie Benetton e Gavio, e questo forse da questo punto di vista può esserci qualche preoccupazione sulla valutazione che sarà fatta del valore di questa quota, tanto che secondo le indiscrezioni si sta studiando una soluzione mista cash e azioni Atlantia, e sia se nel caso ovviamente Fondiavia Assai dovesse registrare una minusvalenza, naturalmente sarebbe una notizia negativa per il titolo. Ancora tra i titoli, deboli gli energetici con il petrolio in calo, Eni meno 0,60, 2A meno 0,70%, Snam meno 1%. Le banche segnalo che oltre a Intesa va bene anche UbiBanca più 2,46, Unicredito più 1,60 e Mediobanca più 0,60%. Abbiamo fatto quasi tutto, mi manca solo però un titolo, Tiscali. Sì, Tiscali è stata tra i migliori dell'intero listino, ha chiuso in rialzo del 12,43%, qui ci sono indiscrezioni su un possibile interesse del gruppo russo Vimpelcom, che ricordiamo di recente ha acquistato anche Wind. Secondo appunto queste indiscrezioni il gruppo russo sarebbe studiando un'acquisizione per rafforzarsi sul fisso e sulla banda larga, nel mio ci sarebbe proprio Tiscali, e questa indiscrezione ha spinto i titoli tra i migliori. Più 12,4%. Ma Zucchi più 14%, è ancora l'effetto Buffon che è entrato nel capitale? Zucchi sembra sempre l'effetto Buffon, che di recente è entrato anche in CDA, dopo essere appunto entrato nel capitale. Si crede nel rilancio dell'azienda, sostenuto appunto anche finanziariamente proprio dal portiere della Juventus, e questo mette il titolo sotto il riflettore ormai da almeno 3 sedute che registra consistenti rialzi. Allora, il peggiore invece è in assoluto le buone società, meno 8,61, e poi Ciccolella, meno 5,34, Antichi Pelletieri, meno 4,36%, ancora Stefanelli, più 4,76%, e Ratti, più 10,70%. Grazie a te e a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, grazie quindi a Paolo Paronetto, buon fine settimana. Grazie anche a voi. Allora, prima di arrivare poi all'America, il doppio fronte americano, Fiat da un lato e disoccupazione dall'altro, Fiat Chrysler da un lato e disoccupazione dall'altro, vorrei ricordare come sempre l'appuntamento di lunedì con le guide del Sole 24 Ore, che la guida di lunedì prossimo sarà dedicata alla cedolare secca sugli affitti, e quindi che cosa cambia per i proprietari e gli inquilini con la nuova tassazione sugli affitti, dopo gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare del 1 giugno, e nella guida vi saranno appunto le informazioni per scegliere e applicare la tassa piatta cosiddetta del 21% in caso di canone di mercato, del 19% in caso di canone concordato. Tutte le informazioni quindi lunedì con il Sole 24 Ore in edicola. Adesso il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e dopo aver toccato i temi di Fincantieri, quindi la sospensione del piano di licenziamenti, esuberi da 2.551 dipendenti, si apriranno i tavoli, la vicenda greca, l'accordo tra Fondo Monetario, Commissione Europea e Banca Centrale Europea per un ulteriore finanziamento alla Grecia da 60 miliardi con... seppur a livello volontario, l'intervento anche delle banche private che contribuiranno al salvataggio della Grecia, e aver commentato la borsa dove predomina la vicenda Fiat. Torniamo proprio sulla vicenda Fiat, ma sul fronte americano, che è il motivo per cui il titolo oggi è cresciuto così tanto in borsa, e anche però per altri dati americani. Mi riferisco dati sulla disoccupazione o sui nuovi occupati quanto mai deludenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevo, due i fronti dall'America. Uno, i nuovi occupati, solo 54.000, il minor numero da 8 mesi a questa parte. Le attese erano molto diverse e la disoccupazione sale a un livello al più alto, 9,1%, contro l'attesa di una disoccupazione in calo. Dall'altro invece l'uscita del tesoro americano e quindi del governo americano dalla Chrysler e la salita della Fiat al 52%. Quindi la Fiat sale al 52% con un'operazione da 500 milioni di dollari dentro la casa automobilistica di Detroit. Partiamo proprio da questa vicenda e ripeto molto bene il titolo Fiat oggi in borsa con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Mario, ieri notte alle 3 di notte ora italiana è arrivato l'annuncio ufficiale, il tesoro americano è uscito dalla Chrysler, ricordiamo che ci mise dentro quasi 6 miliardi di dollari come prestito nel 2009 e Fiat ha esercitato l'opzione del 6%, quindi ha messo dentro 500 milioni di dollari salendo al 52%. E, tra l'altro stasera vi sarà anche un incontro Obama-Marchionne. Sì, dunque è una giornata particolare, devo dirti questa, Sebastiano, perché da una parte abbiamo grande soddisfazione dell'amministrazione americana che chiude con una cerimonia non secondaria questa avventura per difendere e sostenere fino in fondo il settore dell'auto americano. Barack Obama è già a Toledo in questo momento, sta visitando l'impianto proprio con Marchionne e credo che fra una mezz'ora, un tre quarti d'ora farà poi un discorso celebrativo, perché è stata una scommessa non facile ovviamente quella di andare in aiuto con miliardi di dollari del contribuente americano di aziende, perché aiutò anche la General Motors, ma soprattutto la Chrysler, di un'azienda che sembrava così destinata sicuramente al fallimento. Dunque c'è una rivendicazione di successo, la rivendicazione di posti di lavoro tutelati. C'è anche però un'immagine che vorrei darti di questo viaggio di Obama a Toledo, perché Toledo è la tipica vecchia città industriale americana. Nell'Ohio, no? Nell'Ohio, esatto, che non si è riciclata, che ha questo impianto della Chrysler, che è un impianto che adesso funziona e che ha creato occupazione per qualche migliaio di persone. Però se ti guardi intorno in questa città, beh, c'è il compensato alle finestre, ci sono case così in rovina, un'atmosfera davvero depressa. Ecco, questa fotografia riflette lo stato oggi dell'economia, dell'umore americano, perché abbiamo avuto anche un tasso di disoccupazione questa mattina che ha creato soltanto 53.000 occupati, molto al di sotto di quel che ci si aspettava. Guzzolby, che è il capo economista della Casa Bianca, che ho incontrato appena la settimana scorsa, faceva pronostici di creazione di 200-300.000 nuovi posti di lavoro al mese, con l'obiettivo di arrivare alla creazione di qualche milione di posti di lavoro per l'anno prossimo. Ecco, è una battuta d'arresto oppure è un fenomeno tendenziale che deve preoccupare? È un segnale importante, da una parte questa soddisfazione, questa vittoria, dall'altra un problema strutturale che resta e che trova riflesso nella borsa, l'indice Dow Jones, come sapranno i nostri ascoltatori, in questo momento è a ribasso di nuovo e si sta avvicinando pericolosamente attorno al livello 12.000. No, molto bella l'immagine con cui tu hai tenuto assieme, da un lato, il successo di Obama e anche di Marchionne, di Obama in primo luogo, nell'avere salvato la Chrysler, scommesso sulla Fiat e aver avuto ragione, perché a questo punto il tesoro si è ripreso tutti i soldi che aveva messo dentro il tesoro americano. E dall'altro però appunto l'immagine di questa desolazione che si poteva chiamare quasi da sottoproletariato una volta nella vecchia Europa, la dice lunga sulle sfide che ancora attendono l'amministrazione americana. Ancora una nota e poi passiamo alla disoccupazione sull'operazione Fiat Chrysler. Tra l'altro anche il segretario del tesoro, cioè il ministro dell'economia americano, ha espresso molta soddisfazione anche per la scelta del partner. Cioè, una volta tanto possiamo essere contenti del ruolo che ha svolto un gruppo italiano, perché tale è la Fiat, ancora nell'operazione Chrysler. Sì, sicuramente c'è stata molta soddisfazione, Marchionne si intende molto bene con questa amministrazione ed è stata un'operazione sicuramente portata avanti con grande successo, proprio per l'integrazione possibile fra questi due gruppi, la tecnologia che ha portato la Fiat per la costruzione di modelli più piccoli, che poi è la tendenza col costo del petrolio e con le complicazioni dell'inquinamento qui in America, e soprattutto c'è un'integrazione anche geografica, sta nascendo un'azienda globale nel vero senso del termine, il fatto che l'Italia ne sia coprotagonista, beh, direi che è un elemento di enorme soddisfazione per tutti. Anche se delle volte Marchionne, lo dico senza nessuna polemica, è sembrato intendersi meglio con l'amministrazione americana che con quella italiana, e mi riferisco non solo al governo, ma anche a Confindustria. Marchionne è un uomo di mondo nel senso vero della parola, nel senso che si vola in più parti del pianeta dove ci sono impianti sia della Chrysler che della Fiat, e quindi è in grado di mettere a confronto sistemi. Ci sono sistemi più flessibili, ci sono sistemi meno flessibili. Ecco, una cosa molto interessante è che la Chrysler ha fatto enormi concessioni sul piano sindacale, il sindacato è entrato nella proprietà, il sindacato ha dei titoli. Quindi ci sono stati dei sacrifici, delle dimostrazioni di cooperazione che si vedono molto meno da noi. Noi restiamo una parte del nostro paese, e qui non parlo soltanto del sindacato auto, ma una parte del nostro paese resta ancorata a modelli del passato che sono superati. Ero appena un paio di giorni fa a Los Angeles a un convegno sull'economia digitale di internet, dove ti accorgi che insomma le frontiere sono ben al di là di quello che noi possiamo immaginare oggi. Sì, Marchionne è sicuramente un uomo di mondo, speriamo che nel suo mondo, che il suo mondo includa anche l'Italia, perché ripeto, insomma, sicuramente è un successo l'operazione Fiat Chrysler, più dubbi ci sono ancora, non sono del tutto fugati su come gestirà invece l'operazione Fabbrica Italia. Comunque adesso c'è il traffico, poi Mario vorrei spostarmi invece all'altro grosso tema, ossia un'America che sembra rallentare, messa sotto osservazione, o anzi minacciata di essere messa sotto osservazione dall'agenzia di rating Moody's sul suo debito, oggi produce molti meno posti di lavoro di quanto non attendesse e vede salire ulteriormente la disoccupazione nonostante le attese di un leggero calo. 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico. Di nuovo in diretta, 18 minuti, ultima parte di Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, Mario Pratero, dalla Fiat Chrysler spostiamoci al dato sulla disoccupazione. Le agenzie oggi titolano infatti solo 54.000 nuovi posti di lavoro, come tu ricordavi, se ne attendevano 200, forse 300.000. Il tasso di disoccupazione che va al 9,1% e ieri Moody's che minaccia di mettere sotto osservazione il debito americano. Sembra una situazione di rallentamento rispetto all'abbrivio che aveva avuto l'economia statunitense tra, insomma, la seconda metà del 2010 e l'inizio del 2011. Beh, direi che il problema del disavanzo pubblico americano, il fatto che bisogna tagliarlo, e quello poi diventa un problema politico, è un problema che conosciamo. Moody's, scusate, si aggancia a Standard & Poor's, che aveva già fatto un avvertimento non dissimile, un piccolo warning sul fatto che il problema del debito e il problema soprattutto del disavanzo restano problemi chiave. Dal punto di vista tecnico io non credo che ci saranno problemi fino ad agosto, c'è ancora del tempo, nel senso che anche se il tetto sul debito non è stato autorizzato, l'aumento sul tetto sul debito non è stato autorizzato, ci sono degli accorgimenti tecnici che consentono al tesoro americano di non andare in default, quindi le parti politiche hanno guadagnato tempo, ci sono un paio di mesi a disposizione per negoziare il vero accordo, che poi è l'accordo sul disavanzo pubblico. Io credo che alla fine si arriverà a un taglio sostanziale, e a quel punto ci sarà l'accordo per innalzare il tetto sul debito. E si tratterà di vedere se questo taglio sarà poi ben interpretato o male interpretato dai mercati. Certo che o lo fanno adesso o non lo fanno più, perché poi l'anno prossimo è un anno elettorale, quindi ciascuno, repubblicani e democratici, è interessato a togliersi questa grana al più presto possibile. In una battuta però, perché Mario, l'America sta generando meno posti di lavoro e la disoccupazione continua a salire? Abbiamo sempre detto che l'America era un modello in cui si perdevano rapidamente i posti di lavoro, ma si recuperavano anche altrettanto rapidamente. Beh, perché usciamo da una crisi che non ha precedenti in 70 anni, quindi non siamo in un contesto ciclico normale in cui si entra in una leggera recessione, si ripuliscono i posti di lavoro e si riprende. Sono stati bruciati nel giro di 2 anni 7 milioni di posti di lavoro e quindi è faticoso recuperarli, l'economia sta cambiando, i vecchi posti disponibili, proprio per quello di cui ti dicevo prima, il passaggio tra industriale e informatico, cambia la struttura dell'economia del paese, quindi i vecchi posti non tornano necessariamente disponibili. Il settore immobiliare, che generava grandissima occupazione, resta in crisi in tutto il paese e quindi è molto più faticoso recuperare. A questo aggiungi che le aziende hanno un'enorme disponibilità di cassa, ma non spendono, proprio perché c'è questa incertezza di fondo economica. Ci sono una serie di cose da mettere a posto. L'augurio, la speranza della Casa Bianca è che a un certo punto i grandi gruppi che hanno centinaia di miliardi di cassa, voglio dire, non stiamo parlando di poca cosa, a un certo punto tornano ad investire in impianti, tornano ad investire in occupazione. Non lo fanno ancora per prudenza, anche perché ci sono aperti dei problemi, come ricordavamo prima, per esempio sul fronte del disavanzo pubblico, non da poco. Allora, grazie a Mario Platero che ci deve lasciare, mentre saluto, per averci raggiunto il collegamento, l'economista Alberto Bisin, che insegna alla New York University. Buonasera, professore. Buonasera. Dunque, ha sentito Mario Platero, mi interessa questo, sì, il fronte economia americana più che Fiat Chrysler. Tutto giusto, per carità, un deficit e un debito soprattutto stellare, il tetto, se non ricordo male, al debito in questo momento è di 14.300 miliardi di dollari, che praticamente l'America ha già raggiunto, e fa sensazione vedere che anche Moody's potrebbe mettere sotto osservazione il debito americano, cioè il debito più importante al mondo. Però le chiedo, come si coniuga questa disoccupazione che torna a salire in America, gli occupati che sono meno del previsto, l'immagine quasi spettrale che ci regalava prima Mario Platero di una città come Toledo, dove oggi tra poco firmeranno Barack Obama e Marchionne questo passaggio di consegne nella quota di Chrysler con il compensato alle finestre, con un dato che è uscito ieri, ossia, scusatemi se ritorno sulla mia fissazione, Wall Street si sta ricoprendo d'oro. Grazie all'aumento del prezzo del petrolio e di altre materie prime, i profitti delle grandi banche, cioè i primi 10 colossi finanziari, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America e Barclays, hanno visto aumentare i ricavi del 55% nei primi 3 mesi e aumenteranno, già l'hanno fatto, anche i bonus dei manager. Sì. Dunque, non sono sicuro quale sia la domanda. La domanda è come mai Wall Street festeggia mentre Main Street soffre, se vogliamo girarla. La cosa importante è perché Main Street soffre, in realtà. Anche perché Wall Street festeggia, secondo me, perché insomma Wall Street, la crisi lì è nata e sono stati i primi a uscirne, i primi a ricoprirsi d'oro. Wall Street, secondo me, è meno, cioè il problema è il seguente, diciamo, non mi preoccupa che Wall Street festeggi, sono contento che Wall Street festeggi, qualcuno dovrà festeggiare. Quello che mi ha, diciamo, più preoccupato è che non abbia pagato quando doveva pagare. Questo secondo me è stato il grandissimo errore. Adesso che festeggino adesso, sì, insomma, l'economia, diciamo, finanziaria in America ha ripreso bene e quindi è naturale che Wall Street festeggi. Se il mercato azionario avesse perso il 10% ieri l'ultimo mese, saremmo preoccupati e non ci preoccuperemo di Wall Street, ci preoccuperemo del fatto che ci sono dei seri problemi. Quindi io non la metterei adesso con Wall Street Main Street. Secondo me era giusto, la discussione su Wall Street Main Street era giusta 2 anni fa. Abbiamo, come dire, evitato di far guadagnare Main Street molti dei costi da Wall Street a Main Street, e questo è stato un problema. Che lo stiamo pagando adesso non lo so. Questo deficit, questo debito americano che vola a 14 mila miliardi di dollari, è dovuto anche al fatto che si sono salvate le banche. Questo sono perfettamente d'accordo. Voglio dire, le hanno prima salvate, hanno socializzato le perdite e mo privatizzano i nuovi profitti. Ma questo è il punto, sono perfettamente d'accordo con lei, ma questo è esattamente il punto che cercavo di fare. Cioè, il fatto che Wall Street adesso stia andando bene è giusto che sia così. Il problema è che ci troviamo, abbiamo coperto le perdite di Wall Street e ci troviamo adesso senza, come dire, spazi di libertà per poter fare nulla per rendere più semplice la transizione di Main Street. Mi scusi, ma è così inimmaginabile negli Stati Uniti che paghino o contribuiscono? Oggi l'Europa ha deciso che anche le banche, su base volontaria, devono, le banche private, contribuire al salvataggio della Grecia. Ma è così inimmaginabile in America che si chieda a Wall Street, che ha ripreso a darsi i bonus milionari, di partecipare a quello che altrimenti rischia di essere un serio problema sui conti pubblici, visto che questi conti pubblici... No, non è inimmaginabile, ma adesso è troppo tardi, perché allora, tassare le banche adesso significa... Prima era troppo presto, adesso è troppo tardi. No, prima non era troppo presto, no, io bisognava farlo prima, io sono assolutamente... Cioè, voglio dire, ce lo siamo detti, lei ormai è qualche anno che mi chiama, ce lo siamo detti 2 anni fa, io sono assolutamente convinto che andava fatto prima. Adesso è difficile, perché adesso significa un pochino, significa, magari non succede, però c'è il rischio di strozzare la ripresa. Le banche ovviamente sono cruciali nella ripresa, lo sono sempre state, quindi adesso agire sulle banche adesso è un minimo, sì, diciamo così, sì, fermo restando che queste banche stanno facendo profitti d'oro perché stanno speculando o facendo finanza molto molto speculativa sui prezzi del petrolio e delle altre materie prime, non perché abbiano prestato i soldi, lo so, capito, però avessero prestato i soldi all'economia. In una battuta, Bisin, vorrei anche da lei una valutazione: perché la disoccupazione torna a salire in America e l'America rallenta, si impantana? Ecco, questo è il problema serio, secondo me. Diciamo, come sempre, quando uno non ha una risposta cerca di discutere sulla premessa, quindi discutiamo sulla premessa. Non è ovvio, nel senso, non è ovvio che quello che è successo, che i dati di oggi siano, come dire, un segnale del fatto che la ripresa sta rallentando adesso. Secondo me, voglio dire, queste cose si fa sempre fatica a capire se questi dati mensili sono temporanei o più generali. Oggettivamente, onestamente, io non lo so, credo che non lo sappia nessuno, forse qualcuno lo sa, ma certamente io non lo so. Beh, guardi, quello che è vero è che questa ripresa è lentissima. Cioè, se uno va a guardare, insomma, nel medio periodo, negli ultimi anni e mezzo, quello che è, la ripresa è lentissima. E questo è un fatto, credo. Guardi, non so se apprezzare di più la sua onestà intellettuale nel dire guardi, non lo so, e ogni tanto qualcuno che accetti di dire non lo so, non ho la risposta, oppure preoccuparmi di più, perché se anche un economista come lei, che vive in America, insegna alla New York University, non capisce come mai, apprezza, diciamo, e registra il fatto che la ripresa sia lenta, ma non capisce come mai è lenta, questo mi preoccupa. Comunque apprezzo l'onestà intellettuale. Grazie anche ad Alberto Bisin, che appunto insegna alla New York University. A Sebastiano Berisoni veramente tutto. Io non ho che da ringraziare Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Focus Economia torna alle 17 lunedì prossimo. Buon fine settimana a tutti voi. Radio 24. La passione si sente.